c'è un percorso molto solido che credo sia particolarmente interessante affrontare adesso, proprio in un momento di grande crisi, per la quale crisi però dobbiamo prepararci a un rilancio forte. La cultura gastronomica, la cultura agricola sono una base, storicamente è sempre stato così, per la ripartenza. Perché candidare la cultura gastronomica bolognese quale sito UNESCO? Ci sono in atto dei cambiamenti, diciamo, sociali e dei fenomeni di globalizzazione del cibo, compresi i flussi migratori e anche di internazionalizzazione, che non sono da considerare certamente negativi per la crescita economica, che però potrebbero far perdere l'identità e il collegamento col territorio di una cultura che si è radicata nel tempo. Il bene alimentare è un bene, più che una merce. Spesso Bologna e il suo territorio è davvero identificato in modo semplicistico come mortadella, ragù o punto peggio spaghetti alla bolognese. Quindi questo rischio di perdere l'identità storica è molto concreto, ma soprattutto quell'appiattimento, diciamo, del livello verso il basso. La cittadella gastronomica bolognese, con la sua università e quindi l'interscambio che c'è stato nei secoli fra studenti, professori che venivano da altre parti del mondo, è assolutamente un unicum, perché ci deve essere una voce, diciamo, autorevole che richiami in qualche modo i valori della tradizione gastronomica, ma sempre guardando in prospettiva futura, non un richiamo sterile e semplice rispetto al passato. E anche perché questo percorso ci porta dentro pienamente alle nuove sfide economiche, sociali e ambientali che sono lì, diciamo, di fronte a noi, guardando l'agenda ONU del 2030, che è dopodomani, per lo sviluppo sostenibile. E perché anche nel rilancio, diciamo, post-pandemico, il consumo alimentare, gli stili di vita salutare saranno, come posso dire, cardine della ripartenza. E alcuni luoghi comuni legati al cibo bolognese sono, come posso dire, dei miti assolutamente da sfatare. E in effetti il bolognese sounding è davvero preoccupante. Non siamo partiti da lì. L'italian sounding, cioè quelle imitazioni, non sono in realtà delle frodi, sono molto difficili da perseguire, che richiamano, diciamo, il prodotto italiano con una bandierina, con un nome storpiato, ricordo a tutti il parmesano brasiliano, ma valgono, secondo alcune stime, qualcosa come 100 miliardi di euro di Italian Sounding. Considerate che l'export agroalimentare non arriva del nostro paese a 50 miliardi, quindi quella stima è verosimile. Solo recuperarne una parte dal punto di vista economico potrebbe essere assai rilevante. In questo studio preliminare che abbiamo fatto, davvero tutta la filiera agroalimentare mondiale si fregia, quindi, diciamo, dal campo alla tavola, ma vuol dire anche dalla produzione agricola fino ad arrivare alla ristorazione, del bolognese sounding, appunto, come marchio, con delle, diciamo, aberrazioni davvero molto molto forti, arrivando non solo alla ristorazione ma anche alle multinazionali della ristorazione, quelle più note, che storpiano tutto quello che riguarda la nostra tradizione, ma anche l'industria alimentare e la grande distribuzione, come se, appunto, un richiamo fosse sufficiente, e talvolta lo è rispetto a consumatori in altri paesi, a poter poi vendere il prodotto. Ma se andiamo a vedere, l'abbiamo fatto, anche la composizione nutrizionale di questi gli spaghetti alla bolognese, con una sorta di contenitore, quello che si usa per le polpe dei succhi di frutta. Ma non è soltanto questo, anche se può essere uno spunto interessante, un recupero di tradizione, di valore economico e ovviamente un richiamo al nostro territorio. Noi abbiamo simulato molto concretamente quella che è lo schema di domanda del tentativo List, da una prima parte dal dimostrare il valore eccezionale del sito scritto un'analisi comparativa rispetto, diciamo, ad altri riconoscimenti nello stesso campo, nello stesso settore, nella stessa area, l'individuazione concreta e precisa, diciamo, del bene immateriale e poi anche gli strumenti di tutela. Quindi già questo esercizio iniziale è stato molto interessante per inquadrare il fenomeno e per capire la portata di quello che vogliamo appunto proporre.